Blu Radio Sera. Buonasera a tutti. E benvenuti in frequenza, questa è Blu Radio Veneto all'interno della programmazione serale chiamata appunto Blu Radio Sera. Io sono Flavio Bilato e dall'altra parte del vetro, assieme col gruppo di questa sera, c'è Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. Sono proprio nella fossa di leoni, come si dice Flavio. Attenzione, accettati che abbiano già mangiato. Esatto. Sì, sì. Anche pur sempre leggeri, eccoli qua. Abbiamo già svelato le prime voci e quindi diamo subito il benvenuto in questa serata ai Quartetto Desueto. Buonasera ragazzi. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Fatto ciao. Buon viaggio? Ottimo viaggio. Sì. So che vi siete incontrati in quel di Padova, perché uno opera a Bologna, un altro a Vittorio Veneto, un altro insomma, a Chionse. e finalmente questa sera c'è una delle tante reunion che voi usate fare proprio chiamandovi da lontano, sì, ed arrivando dove vi mettete d'accordo di andare a suonare. Flavio, facciamo subito i saluti al nostro grande Max Castelunger, che è certo, il quinto elemento a tutti gli effetti ormai della band, che ci ascolta in diretta anche al sesto elemento, Mauro Poletto Fancartista. Quindi salutiamo con un bel Guten Abend allora, Max Castelunger, che è appunto il quinto elemento, quasi percussionista. Che è il percussionista, quasi a citare anche un film di Luc Besson ancora degli anni 90, questo quinto elemento. Vabbè, allora partiamo dall'inizio, quella domanda che voi odiate tanto, che vi fanno tutti comunque. Indovinate quale potrebbe essere, ragazzi. Che tempo fa domani? Giustissimo. Allora, le previsioni meteo sono a cura del Quartetto Desueto. Allora, perché Desueto? Chi ha avuto questa idea, che qualcuno ha definito anche malsana, di chiamare Quartetto Desueto? Allora, l'ha avuta, si potrebbe dire, in comunità, sì, Aldo e una ragazza, una nostra, diciamo, una ragazza che ci seguiva ancora prima che esistesse il Quartetto Desueto. Sì. Aldo, in una sera, dopo uno dei nostri primissimi concerti, quando ancora non eravamo il Quartetto Desueto, insomma, ha tirato fuori questa parola nell'after show di un'osteria di Vittorio Veneto, parlando non mi ricordo più di cosa, e ne è nata subito una discussione anche abbastanza accesa sul significato di questa parola, sì, che ben pochi appunto avevano presente. Si conosce come usato poco, obsoleto, proprio, in disuso, informatissimo, demodé. Ci sono un sacco di sinonimi legati a questo desueto, che comunque è un vocabolo usato poco. Esattamente. Appunto desueto. E quindi avete deciso di chiamarvi così proprio. Esattamente. Però non vi sentite desueti in questo caso? Oddio. Oh, mamma mia. Questa è una domanda che andava fatta alla fine del programma. No, no, io sono stato usato a lungo, adesso ecco, meno. Allora. Perfetto. Quindi diciamo anche i nomi di chi sono il Quartetto Desueto: sono Aldo Betto, chitarre, ancora Cesare Ceschin, sax, clarinetto, chitarra e voce. Ho avuto modo prima di fargli dei veri complimenti per il suo sax, che sentiremo suonare più tardi. Poi grazie. Ancora Giacomo Daross, basso e voce, e Mauro Daross, chitarra e voce. Quindi dal cognome o sono fratelli o sono cugini, diranno. Quindi fratelli, assolutamente sì, sì, fratelli. Sì. Bene. Si va d'accordo tra fratelli in un gruppo? Oddio. No, perché sì, se Gallagher insegnano... Sì, sì. Ecco, no, beh, no, non faremo quella fine, no. No. Ecco. Flavio, hanno parlato che il nome è venuto fuori da un'osteria. Io mi ricordo l'osteria delle dame del buon Guccini, che anche lui creava le cose dell'osteria delle dame. Quindi l'osteria serve come punto di ritrovo per creare anche la musica. Assolutamente, sì. Beh, noi siamo nati in un'osteria, si può dire, no? Beh, l'osteria è anche un bellissimo luogo sociale, no? Di incontri. Noi i primi concerti li abbiamo fatti lì, il primo contatto con la gente. C'era questo appuntamento domenicale, della domenica pomeriggio, e una volta al mese, dove diciamo lì ci siamo fatti un pochettino le ossa, costruendo pian piano il nostro repertorio e anche il primo rapporto con il pubblico. Sì, perché è fondamentale il live per voi. Io ho letto, avete fatto un sacco di concerti, un sacco di live, perché l'approdo è basilare in tutte le band. E per fare, come si dice, cercare di fare le vie, di trovare delle vie diverse, bisogna suonare continuamente per farsi conoscere. Cosa dite? Vabbè, certo, noi nasciamo proprio come live band, e forse anche il momento nel quale riusciamo a esprimere al meglio la nostra personalità, Infatti abbiamo visto crescere nel tempo proprio anche, come dire, il pubblico che ci segue, proprio in termini numerici, dai primi concerti con 50-60 fino ad arrivare agli ultimi, dove per esempio alla pubblicazione del nostro ultimo lavoro siamo arrivati a superare le 1000 persone in 3 serate a Vittorio Veneto. È stato una grandissima soddisfazione proprio. Un lavoro, il vostro ultimo lavoro, che si intitola Mari Lontani, ma a Vittorio Veneto non c'è il mare, a Bologna nemmeno. A Chions, citato prima, non l'abbiamo mai visto. Allora, come mai? Sono mari proprio lontani in questo caso. Molto lontani. E poi non dimentichiamo, ritornando a prima comunque anche velocemente, che attraverso il live è la band che cresce, no? Certo. Proprio si irrobustisce letteralmente il suono, si mette meglio a fuoco proprio l'identità del gruppo, quindi anche la ricerca dei testi, delle musiche. E la cartina torna solo in migliore, c'è poco da fare. Si vede subito cosa funziona, cosa meno. E invece arrivando a Mari Lontani, la storia è questa qui. Più o meno un anno fa, anzi all'incirca proprio direi 12 mesi fa esatti, eravamo a Genova per un bellissimo concerto per l'inaugurazione di una mostra di un nostro conterraneo veneto, che è Marco Goldin, che probabilmente conoscete, un abile, bravissimo, riconosciuto organizzatore di mostre, quello che portò quelle mostre meravigliose a Treviso qualche anno fa, poi dovette emigrare a Brescia, adesso è ritornato in Veneto, ma ormai lavora perlomeno a livello nazionale con delle mostre appunto a Rimini, Roma, eccetera, se non appunto a Genova. A Genova la mostra era intitolata Mediterraneo, c'erano quadri fantastici di autori anche conosciutissimi, da Van Gogh, Cézanne, Monk, eccetera, e noi fummo invitati a suonare quel giorno in compagnia anche della PFM di Antonella Ruggero. E in più c'erano giornalisti come Gianni Mura, eccetera, a dissertare, come dire, sul tema appunto della mostra. Noi avevamo il nostro set di 45 minuti che fu intitolato proprio da Goldin Mari Lontani. Il titolo ci piacque molto perché noi appunto spesso nelle canzoni usiamo queste sonorità un po' caraibiche, a volte africane, che riecheggiano appunto continenti lontani, posti fisicamente lontani. Allora, visto che abbiamo citato questi posti fisicamente lontani, questi mari lontani e anche questa specie di sottotitoli che si leggono nella copertina, quindi il saluto Aloha, quello che, Aloha. Che si sente parecchio da quelle parti, direi che potremmo iniziare ad ascoltare subito una vostra prima canzone, così per commentarla insieme, per far capire anche ai nostri ascoltatori chi sono i Quartetto Desueto. Blu Radio Sera. Silenziosa sei, occhi miei, primavera dei giorni miei, come sole, scia di luce sei, sai di miele, come un viaggio, un miraggio sei, dimmi sunshine. Thank you. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E ci siamo ascoltati il primo pezzo dei Quartetto Desueto. Questa canzone si intitola Sunshine, mari lontani, e proprio ci riporta lungo la costa, e forse qualcuno già prendeva in mano il surf affrontando questa canzone. Come mai? Prego, da dove vi arrivano queste onde lunghe, onde alte? Un'onda lunghissima questa qui. Direi che la scintilla iniziale è avvenuta nel 2004, quando io e Giacomo, insomma, che tra pochi mesi festeggiamo i 20 anni di onorata attività insieme. Avete cominciato assieme all'asilo, no? Più o meno sì. Abbiamo avuto la fortuna, insomma, di intraprendere un bellissimo tour di diversi mesi negli Stati Uniti. E lì abbiamo conosciuto appunto queste sonorità per la prima volta, cioè lo Zoukous, che è un genere proprio musicale dello Zaire, del Congo belga. Altre cose, poi c'è anche un pezzo che si chiama assolutamente Zoukous, sì, che si ispira proprio a quelle, riprende un tradizionale per poi svilupparsi in una forma originale, e la soca, che invece è un ritmo caraibico, eccetera eccetera. Quelle sonorità lì le abbiamo assorbite appunto suonando con una, si chiamava Steel Pan, che era Steel Drum, ok, Steel Pan Calypso Band, ed era molto interessante. Insomma, ci siamo innamorati di quelle sonorità. Noi fino allora avevamo suonato principalmente del gran rock e basta. E da lì appunto ci siamo appunto allargati, ci siamo innamorati di questi suoni, e poi niente, dopo gli anni successivi, dal 2004 ad oggi, è stato tutto un sviluppare questa cosa, no Jack? Anche attraverso altre amicizie, come quella con Kirk Smart, che è stato, come dire, l'anfitrione alle Hawaii, no? Nel senso, la persona che appunto ci ha ospitato, ci ha anche stimolato nella riuscita di questo disco. Quindi però il Quartetto Desueto, voglio dire, sono datati ufficialmente 2006, quindi quando tutto era stato rodato e perfezionato. Ma nel senso che noi, diciamo, abbiamo ascoltato queste sonorità e le facciamo per esempio in elettrico, no? Poi le abbiamo iniziate a sviluppare anche in chiave acustica, e lì è stato chiaramente fondamentale Mauro, che magari ha iniziato a farle leggermente dopo a livello cronologico, però per esempio il suo apporto, dato che Mauro per esempio suona molto bene la chitarra classica, essendo anche diplomato, e ha questa abilità negli arpeggi, e quindi diciamo che è stato quello un po' la chiave per riuscire a trasportare questo suono che noi avevamo ascoltato elettrico in chiave acustica. E poi non dimentichiamo che l'apporto appunto vocale, per far sì che queste sonorità vengano fuori al meglio, e l'apporto proprio della vocalità inteso in senso proprio appunto di armonia, no? Quindi non una voce lead, non una voce principale, ma spesso appunto sovente queste voci che vanno di pari passo, vi alternate, no? Anche nelle canzoni, poi arrivate anche insieme nei cori, come abbiamo appena sentito, certo, in questa Sunshine, esatto, e come sentiremo anche questa sera dal vivo, perché ricordiamo ai nostri ascoltatori che i Quartetto Desueto sono arrivati qua non mani nelle mani, ma mani nelle chitarre, mani negli strumenti musicali. Quindi abbiamo sentito la chitarra, più tardi sentiremo anche il sax, il basso, una gran cassa ribelle, a quanto abbiamo capito. E sentiremo le voci dei Quartetto Desueto, che ricordo essere quelle di Aldo, Cesare, Giacomo e Mauro. Avete parlato di vocalità, allora i fratelli Wilson hanno bussato alla vostra porta spesso e volentieri qualche volta? Oddio, Giacomo. Cosa dici, Giacomo? I grandi Beach Boys hanno bussato qualche volta alla vostra porta? Sì, li ascolto spesso, li ho anche messi via. Dopo delle versioni tremende, esatto, dei pezzi, sì, dei Beach Boys che abbiamo fatto. Certo. E quindi, no, ma però sì. Nel discorso delle voci allineate, e se è proprio questo la chiave di volta, chiave di lettura di tutti i pezzi di Beach Boys, avevano le voci allineate, sì, perfettamente, sì, allineate. E Beach, cioè, non è mica una cosa negativa. No, noi lo poniamo dei grandi personaggi, esattamente. Assolutamente, anche con i fonici quando ci troviamo a fare il live lo poniamo quasi sempre proprio come condizione determinante, cioè che le voci siano pari. Ecco Flavio, ti l'hai messo in sottofondo. Surfing Safari, non sapevo esattamente, perfetto, quale inserire, visto che perfetto, è uno dei più conosciuti. Qualsiasi va bene. Beh, io ci tengo a sottolineare, conoscendo, perché Giacomo parla poco, è silenzioso, però so che apprezza molto, dato che è spesso lui che sviluppa un po', diciamo, le armonie vocali, e i Crosby, Stills, Nash e Young, che due di loro poi abbiamo appena ascoltato pochi giorni fa a Padova, e c'eravamo pure noi. C'ero anch'io e Alberto, il nostro direttore artistico. Ci avrei scommesso che c'eravate, ci avrei scommesso qualsiasi cosa. Forse diciamo che addirittura il riferimento a loro è ancora più evidente. Ma a tal proposito, Jack, dai, raccontagli questa chicchetta, sì, dai. Io so il discorso della chicchetta. Dai, si può raccontare. Fuori. Dai, vai. Quale? Quale delle mille? Quella di Barbarin. Allora, mio fratello... È figlio unico. Esatto. È figlio unico. Probabilmente... suonava in un gruppo prima del quartetto, insomma, in un gruppo dove una cover band anche, insomma, di una certa fama in zona nostra, e facevano delle versioni che tuttora ogni tanto prova a inserire nella nostra scaletta di un paio di pezzi, non dico quali, dei Beach Boys. Un suicidio, in poche parole. Esatto. E uno dei miei dischi, Machina, è sempre stato Pet Sound, insomma, no? Che e non l'ho più ascoltato. Insomma. Dicono però, che siano i pezzi di Follina su. Esatto. Su. No, è lì, e insomma, adesso pian pianino lo ritirerò fuori. Insomma, però, insomma, queste sono avventure di band. Insomma, non succede niente. Hai citato uno dei dischi più importanti. Il buon Paul McCartney, che ha suonato qualche giorno fa in Italia, ha sempre detto, tu c'eri, beato te, 35 pezzi ha fatto in scaletta Flavio, 35 pezzi, 3 ore di concerto. Ti correggo, faccio lo zelante, erano 36. 36, perfetto. 68 anni. 69, perfetto. In ogni caso, Pet Sound ha sempre detto, io se non sentivo Pet Sound non facevo Sgt. Pepper, quindi... No, assolutamente. Beh, è un disco da imparare a memoria, cioè, secondo me. Poi bene. Allora adesso impariamo a memoria qualcosa del Quartetto Desueto, cerchiamo di farlo assieme ai nostri ascoltatori, ma soprattutto assieme ai Quartetto Desueto, che appunto, ricordiamoli, essere qua con gli strumenti musicali per proporci un primo pezzo live. Vai Mauro. Allora sì, due parole al volo, noi siamo veneti, il quartetto è proprio veneto doc, così come doc è il vino che beviamo in genere. E non potevamo resistere alla tentazione di dedicare una canzone a questa sostanza che ci fa passare dei momenti così meravigliosi e che talvolta ci fa sembrare anche un pochettino più umani. Vino. Forse colore in evidenza, e farlo bene chiede tanta esperienza, o forse solo la sua presenza, che accende i sensi, alleggerisce la coscienza. Ma quando sta con noi, bianco, rosso, permo, bollicine, drive. Che tu sia diventato quasi umano, quasi tuo cervello possa essere sano. È rischioso dirlo, caro hermano, ora oste caro versa piano. Ho detto troppo, abbastanza, forse più. Forse profumo che non mi stanca, o forse un pezzo della vita che mi manca. Ma per averlo, la mia palanca, rinuncio volentieri a lasciarla in banca. Perché quando sta con noi, bianco, rosso, fermo, bollicine, trae. Mi viene da dire che tu sia diventato quasi umano, quasi tuo cervello fosse sano. È rischioso dirlo, caro hermano, ora oste caro versa piano. Ho detto troppo, abbastanza, sono umano, oste non versare a questo nano. E sai che mi son preso un po' la mano, devo dirlo ancora, sono umano. Se ne capisci, ho detto troppo, come vedi sono zoppo. Prego a pazzi, quello schioppo pagherò. Mm-hmm. sai farlo bene così sente l'esperienza. Ma non lo dire, sia per creanza, che quando Bacco è sceso dentro alla tua panza. E quando sta con noi, bianco, rosso, fermo, bollicino e trae. Potresti dire che vuoi donarmi un altro essere umano. Sai che tuo cervello è ancora sano. Basta non pensare, stai lontano. Non potrò fermare la mia mano. Conosco il rischio, io mi alzo, sono umano. Basta non pensare a questo nano. E sai che mi son preso un po' la mano. Devo dirlo ancora, sono umano. Se mi capisci ho detto troppo. Come vedi sono zoppo. Prego abbassi quello schioppo. Pagherò. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Abbiamo sentito anche il primo pezzo dal vivo, a cantarlo sono qui in diretta con noi Quartetto Desueto, un brano appunto dedicato a quello che è il prodotto tipico delle zone da dove sono nati i Quartetto Desueto. Ricordiamo esserci in prima fila Vittorio Veneto, e diamo ancora il benvenuto ai Quartetto Desueto che sono qui con noi. Li avete sentito adesso dal vivo e appunto con questo Dal Vino. Eh sì. Beh, direi che questo pezzo qui è contenuto invece nel disco precedente, giusto per come dire, far quelli conoscere la cosa elementi che ascolto. Desueti, certo, esatto. Elementi desueti, sì, sì, è proprio il pezzo con cui si apriva quel CD lì, quindi mi ha fatto sentire un po' l'apertura di entrambi i nostri ultimi due lavori. E niente, se si potesse noi faremo anche direttamente anche un'altra canzoncina live. Parliamo un momento, un'altra volta del pezzo, mi interessava. Certo. La costruzione, come l'avete creato questo mix di tanti riferimenti, Caraibi e non soltanto Caraibi? Ma come si diceva, dalle nostre influenze musicali, no? Noi si parte sempre da lì. Ognuno di noi arriva da percorsi completamente diversi. Sottolineava Aldo giustamente prima, loro hanno fatto tantissimo rock prima di arrivare appunto al quartetto. Io arrivo dalla classica, così come Cesare. Loro sono stati negli Stati Uniti e anche lì hanno acquisito e assorbito queste sonorità. Bene, poi dopo mescolando tutte queste cose qui assieme tra di noi nascono queste cose, questi suoni che sono anche un po', come dire, un po' personali, un po' nuovi. Un po' anche swingati un momento. A volte sì, a volte sì. È un po' ironico il pezzo. Assolutamente ironico. Sì, deve essere così. Vino, sì. E il vino non è desueto, assolutamente. Ah, no, assolutamente. Ok, cosa volete fare, un pezzo live un'altra volta allora? Assolutamente sì. Ok, che cosa? Si intitola Perla e Cerchio. Questo parte da una considerazione collegata a un essere, a un esserino meraviglioso che è il cane di Giacomo e Arianna, appunto, che si chiama Perla. E è un cane bellissimo, intelligentissimo, che ci ha fatto fare una riflessione sulla vita un po'. Sembra difficile accettare che magari questo, chiunque di noi, ma in questo caso questo cagnolino, possa un giorno scomparire. In realtà io penso che nessuno di noi poi scompaia mai, ma rientri all'interno del cerchio, appunto, ecco perché abbiamo chiamato questa canzone Perla il cerchio, all'interno del quale tutti quanti noi siamo agganciati, vuoi per il ricordo che lascia, vuoi anche semplicemente fisicamente perché i suoi atomi si disperderanno e poi rientreranno in un altro corpo. Insomma, una riflessione proprio sul cerchio della vita e sulla necessità che questa continui anche dopo, proprio per esempio, come dire, sì, nel ricordo di chi ha conosciuto una persona, un essere vivente o anche una pianta, qualsiasi cosa, insomma. Perla e il cerchio. Approfitto del gancio di Mauro per ricordare velocissimamente una nostra amica che in questi giorni a noi purtroppo ci ha lasciato per una malattia. E diamo un saluto a Daniela, e appunto a proposito del cerchio speriamo di rincontrarci prima o poi, e attraverso appunto anche il nostro sito, semplicemente non parliamo neanche di raccolta fondi, però comunque ci teniamo, c'è un link che manda direttamente all'associazione, alla fondazione che cura, aiuta i malati di fibrosi cistica, e quindi appunto per chi fosse interessato potete dare un'occhiata lì ci sono diversi modi sia, certo, per informarsi innanzitutto prima ancora che contribuire. Poi approfondiremo anche il messaggio legato al vostro sito internet, però adesso tocca a la perla e il cerchio. Certo. Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Abbiamo ascoltato anche Perla e il Cerchio, questo pezzo che è racchiuso anche all'interno del loro ultimo album Mari Lontani. Loro sono il Quartetto Desueto e ci hanno onorato di cantare live anche questa canzone. Ci hanno spiegato anche all'inizio questa filosofia racchiusa all'interno di questo testo, molto toccante, però anche nella stessa maniera molto speranzoso e nella speranza positivo. Eccoli qua, il Quartetto Desueto ancora con noi. Una cosa dobbiamo sottolineare da questo pezzo, che cresceva continuamente fino alla fine, ed era l'amalgama dei cori, cresceva anche con il pezzo, secondo me, e dava un risalto notevolissimo al pezzo. Non so se siete d'accordo, ragazzi. Quello che se è uscito e tu l'hai percepito, noi siamo contenti perché è l'obiettivo del brano, insomma, un po' questo. Quindi, e secondo me i cori andavano bene, non ti preoccupare. Perché gli ascoltatori non sanno, ma i musicisti, quando hanno la tensione già mentre il pezzo, e quando è appena finito, non erano soddisfatti, ma sono andato benissimo, non vi preoccupate. No, perché chi fa sa dove c'è l'errore, c'è dove non c'è stata quella sintonia immediata, ma chi ascolta magari, sì, pur sempre nell'attenzione, non coglie i momenti in cui i musicisti, molte volte anche sul palco, si guardano un po' con l'occhio bieco, diciamo. Vabbè, comunque... la vostra simpatia vive tra queste sonorità. Allora, sonorità che, come ricordavamo prima, non sono folk, non sono rock, non sono West Coast, ma nello stesso momento raccolgono tutte queste caratteristiche proprie della musica, come si ricordava in principio. Eh sì, il nostro obiettivo è quello di fondere un po' le cose che ci piacciono, direi, punto. Nel senso, le influenze sono talmente tante, ci piacerebbe davvero riuscire a coniugare la scelta di cantare quasi essenzialmente in italiano con quella di mescolare appunto i ritmi, le armonie delle musiche che più ci hanno fatto star bene, no? Quindi sì, quello che abbiamo ascoltato nel corso di tutti questi anni, quello che abbiamo tentato di suonare, quello che abbiamo assorbito da musicisti con i quali abbiamo avuto magari delle collaborazioni, come dire, occasionali, no? Più tardi ci sarà anche una domanda riservata a voi, a ciascuno di voi, relativo a quelli che sono i personaggi che vi hanno plasmato un po' musicalmente parlando, vostri personaggi di riferimento, dei quali non potete fare a meno di avere qualche disco da citare. Ma questa sarà una domanda che riserviamo più avanti. Prima si parlava del vostro sito internet che al quartettodesueto.com. Yes. Ecco, all'interno di questo quartettodesueto.com si colgono diverse finestre. Assolutamente. Quindi sì. C'è la finestra riservata a quello che è live anche di questa sera, perché assolutamente ci avete fatto, sì. Ci avete fatto una buona pubblicità e per questo vi ringraziamo. C'è un link riservato anche al vostro percussionista. Quindi sì. Ricordiamo essere Max Kastlunger, che sì. Appena si clicca lì subito si è inebriati da sonorità con congas, varie percussioni che... È come cliccare Max, no? Esattamente. Se clicchi su di lui e vieni inebriato letteralmente. Fantastico. E poi ancora ci sono, ad esempio, la cosa che mi ha incuriosito, quel diario di bordo. Così è uno raccontare dal nostro punto di vista un po' quello che succede. Sono ancora un po' scarno, forse solo per una questione di pudore, come dire, a mettere in piazza le proprie emozioni. Però diciamo, quello era un po' l'obiettivo. Però pian pianino si fa, voglio dire. Anche pian pianino si fa. È una delle curiosità solitamente dei fans, di chi vi viene a trovare, quelle che poi sono le emozioni vere dei gruppi che stanno comunque ad altezza fan. C'è chi va a un palco alto 10 metri e chi invece sta proprio ad altezza di chi lo ascolta. Eh sì, noi proprio per quello ci piace anche suonare appunto in posti anche molto differenti tra loro, cioè, come dire, dal teatro e anche al posticino piccolo dove c'è un contatto diretto. Ma noi siamo molto soddisfatti del sito. Approfittiamo, sai, queste cose di tipo queste interviste in radio serve anche un po' anche per fare un po' anche il sunto anche delle persone che lavorano con noi. E parlando del sito, è inevitabile parlare di una delle persone, come dire, che fa parte ormai della nostra equipe, letteralmente, perché sai, attorno a noi e con noi si è formata una squadra. Oltre ai citati Max, che ormai appunto fa parte della band proprio come musicista, Mauro Poletto come ci dà una mano dal punto di vista manageriale, è fondamentale ricordare il buon Sergio Rosolen con tutto lo studio Bianche Volta, che ci danno una mano dal punto di vista della grafica, facendo le foto che vedi il nostro sito. Il sito è poi curato direttamente da Gioia, la figlia di Sergio, che ha avuto quella bellissima intuizione di farlo diventare una pagina di giornale, che mi piace tantissimo questa cosa. Sì, sì, sì. Tipo quella, qual era la copertina del disco dei Jethro Tull, che aveva, era sempre Thick as a Brick, mi pare. Thick as a Brick, sì, sì, è proprio lui. Sono siete enciclopedici, sì, siete enciclopedici. Vabbè, e comunque c'è anche il bonus. E mi piace che vi trattenete anche, perché secondo me ne sapete ancora di più. Io credo che potreste citare altri due titoli con la copertina a pagina. Molto di questo disco vostro, io cito un disco di Gary Clapton, 461 Ocean Boulevard, c'erano due palme. Anche, ecco. Allora ti scusi, quello di Eagles anche, infatti. E poi per parlare sempre del sito, un'altra cosa davvero curiosa e carina è la possibilità di scaricare anche un poster. Assolutamente sì, ci piace anche quello, ma poi vedrai anche il sito è un evoluzione. Proprio, è appunto proprio un laboratorio per noi, serve anche per mettere a punto fuoco l'idea. Adesso, come hai appena sentito, c'era la canzone Vino, ci sarà anche una rubrica, chiamiamola enogastronomica, che abbiamo, noi abbiamo, cioè, non ci facciamo mancare nulla nella band, c'è anche il sommelier, cioè, abbiamo Buon Giacomo, che se magari una presi gradi, come dire, quelli no, dati ufficiali però, sul campo si difende molto bene. E noi invece di qualità, io, Mauro e Cesare andiamo di quantità, siamo più volgari. Abbiamo anche la certificazione, sì, sì, proprio da parte di Cesare. Se Giacomo viene assunto dal gambero rosso, noi dal gambero rozzo. Però... esatto. Eccola, l'hai studiata stanotte, dai. No, giuro. È venuta adesso. Grande, allora bella. Allora grande, merita. E giuro, soprattutto giuro. Ricordiamo anche i nostri ascoltatori che la piacevole serata di questa sera con il Quartetto Desueto è anche in via di registrazione. Bene. Poi sarà inserita all'interno dei nostri archivi sonori per poterla riascoltare per chi ne avrà voglia e per potersela scaricare. Naturalmente, oltre a questo, ci saranno anche le foto nella nostra pagina di Facebook, Blu Radio Veneto Rock Wave, e quindi vedremo anche i volti a più espressioni dei nostri protagonisti. Sì, pagina Facebook che è curata dal nostro direttore artistico, che stasera vi ha voluto qua fortissimamente. Grazie. Alberto, grazie, e lo salutiamo. Grazie Alberto. Allora, ancora con Mari Lontani, dove andiamo adesso? La traccia numero 3, che è Oceano Mare, e anche questo è un pezzo di qualche stagione fa, che avevamo voluto registrare in una nuova veste per questo album. E Oceano Mare, come credo ben sappiate, è il titolo anche di un celebre libro di Baricco. È stato composto nello stesso posto dove poi siamo tornati a registrare, cioè nell'isola di Kauai, che si colloca a nord, l'isola più a nord di tutto l'arcipelago delle Hawaii. E forse l'isola più bella, nel senso, sono tutte splendide, però quella, essendo anche geologicamente la più antica, ha un fascino, come dire, immenso, letteralmente. Ci sono posti che ti stregano letteralmente per la loro energia potentissima. E c'è una spiaggia tra le tante, di assolutamente appunto bellissime, che è la spiaggia di Kilauea, che viene menzionata più volte nel titolo. E appunto il pezzo è un po' una summa di tante cose che ci piacciono. C'è appunto questo pulsare africano, e c'è l'uso di parole italiane e hawaiane, eccetera eccetera. E poi qui è ben in evidenza appunto anche il ruolo del nostro percussionista, il buon Max, che qui si sbizzarrisce in un sacco di sfumature diverse, come sentirete tra qualche istante. Bene, allora ci ascoltiamo questo pezzo. Mi ha messo veramente una curiosità, anzi no, io lo conosco già, però abbiamo messo la curiosità agli ascoltatori. Eccolo qua. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Come va, ragazzi? Molto bene. Thank you. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Che atmosfera. Oceano, mare, si intitola la canzone che abbiamo appena ascoltato. Loro sono i Quartetto Desueto, la loro ultima produzione si intitola Mari Lontani, e come si diceva prima in apertura del pezzo, qui abbiamo sentito il grande Max Kastlunger alle percussioni, che è stato proprio l'elemento trainante di tutta la concezione di questo pezzo. Però non in secondo piano c'era anche una meravigliosa tromba, avevate un ospite in quel caso. Sì, allora Aldo, avendo già frequentato il luogo, ha scovato un trombettista che ci ha aiutato anche nell'arrangiare in fretta, perché il tempo era veramente poco. Queste parti per fiati, però colgo l'occasione per dire che questa consuetudine è diventata ormai prassi. Perché ad esempio nel concerto di presentazione del disco abbiamo avuto una sezione fiati di tutto rispetto, e l'avremo ancora il 6 e il 7 a Sacile il 7 e a Bolzano il 6 dicembre. Abbiamo un sassofonista eccezionale e anche un trombettista, li faccio presentare da un loro collega in questo caso. Siamo tutti colleghi, comunque Vittorio Gualdi alla tromba e Gianni Vancini al sax. Grande. E anche molto simpatici, qualità che è fondamentale, certo, per essere ammessi alla corte del Quartetto del Vento. L'altra cosa, ci sono molti filmatini che girano su YouTube che vi vedono non solamente voi 4 o 5 come Quartetto Desueto, ma con una folta schiera di altri, esatto, di altri musicisti a dare ancora più valore alla cosa. Vedevo un percussionista, il batterista, poi ancora i fiati. Bruno Farinelli, appunto, la batteria, sì, che è un grandissimo musicista. E appunto nella prima parte della nostra storia diciamo che c'è stato Mirko Maestro alla fisarmonica, e invece ora collaboriamo appunto con due fiati a rinforzare, invece Bruno Farinelli alla batteria, Vanessa Vaccari invece ai cori, sono rimasti stabili nella formazione. E con questo discorso ritorna sempre l'idea della band allargata, della band che deve suonare contemporaneamente sempre in continuazione, come abbiamo detto all'inizio, è la cosa più importante e fondamentale nella vostra produzione, secondo me. E i fiati, perché i fiati? Perché, non so, cito un nome, gli Earth, Wind & Fire, tra virgolette. Ecco. Dai. Ma i fiati perché? Per dare dei colori diversi, cioè siamo ancora alla ricerca della sonorità giusta, di quella che, non dico forse non ci soddisferà mai, però anche l'introduzione del clarinetto, mi chiedevi prima perché il clarinetto, perché per dare un colore particolare, magari non occorre fare virtuosismi, note particolari, però un tocco di colore ci sta. Mi piace paragonare questi sprazzi a quello che fa spesso Max, tante volte usa degli strumenti, se li porta per 300 km per fare un solo din. Un campanello. Però è importante anche quello, insomma. È lo spirito dei gruppi degli anni 60, questo, assolutamente. Parliamo di Grateful Dead, Flavio lo sa, e dei gruppi similari, quindi... Dimmi, volevi dire una cosa. Sì, hai citato Earth, Wind & Fire. Sì, appunto. Sono nel tuo core. Possiamo dirlo. Possiamo chinarci davanti a qualsiasi album di Earth, Wind & Fire, ma il fonico di Mari Lontani era fonico degli Earth, Wind & Fire. Ah, vedi che qualcosa c'è. Non lo sapevo. Abbiamo... Vedi. Maurizio non lo sapeva. È un medium, no? È un medium. Comunque, vabbè, c'è ancora qualcuno dei fratelli White? Ancora? Sì, ci sono tutti? Sai, non lo so, francamente, però a me interessa l'idea, il ricordo di loro, certo. Straordinario. Vabbè, allora, ancora qualcosa dal vivo, se non sbaglio, c'è in scaletta. Assolutamente sì. Prima di tutto volevamo anche ricordare che proprio da oggi il nostro disco Mari Lontani e tra poco anche Elementi Desueti sono disponibili alla Green Records qui a Padova, diciamo il negozio di dischi, quello vicino alla stazione in piazza De Gasperi. Ok. Perfetto. E niente, se qualcuno li vuole, appunto, li può trovare anche lì, oltre che diciamo, sulla piattaforma digitale, iTunes, o meglio di tutto, i nostri concerti. Ecco, quelli sì, perché poi quando uno ha ascoltato il concerto va a casa col disco e già. Pensa ancora alle sonorità che poi saranno comunque trasformate nel disco, però qualche pezzettino di emozione rimane sempre attaccato, magari anche con la vostra dedica dopo. Qualche volta succede, sì. E poi non dimentichiamo che per noi vendere dischi è fondamentale, nel senso che quello che ci entra diventa il budget con cui fare il lavoro successivo. Quindi non dimentichiamo che è importante contribuire anche da questo punto di vista. Se noi non riusciamo a vendere un po' di CD, quello, il disco che viene dopo non lo si può fare, perché non abbiamo proprio, come dire, una base economica sulla quale contare, insomma. Di certo non siamo per la musica gratuita a tutti i costi, ecco. No, assolutamente. No, anche noi siamo per questo, perché effettivamente le nostre trasmissioni all'interno del live sono fatte per conoscere i gruppi, per far sentire le versioni, diciamo, acustiche dei pezzi, ma anche per dare la possibilità al gruppo di essere conosciuto e più, e di poter naturalmente vendere i dischi. Certo, molto. Benissimo. Un altro pezzo allora? Assolutamente sì, la canzone che invece andiamo ad ascoltare ora è la canzone con cui si chiude il CD, si chiude il CD Mari Lontani. Il titolo è Ho perso la direzione. È una riflessione su molteplici livelli e parte da una frase che mi era molto piaciuta di un libro di Kundera, dove c'era questo personaggio che rinfacciava il suo amico: sono capaci tutti a sedurre le donne, la difficoltà sta nel lasciarle bene. Questa frase mi era sempre piaciuta. Cos'era, dall'insostenibile? No, il falso degli AD. Quello, il vaudeville, quello bellissimo. Milan Kundera, quindi. Sì. E lì, e poi, come dire, si va verso forse la cosa più importante del pezzo, che è quel momento di fine giornata, dove a un certo punto ci si è finalmente depurati da tutte le, diciamo, le baghe del quotidiano, e ci si può così un po' permettere di fantasticare, di pensare a quello che è la nostra esistenza, o, come dire, quello che potrebbe essere stato, potrà diventare, quindi le cose potenziali, semplicemente così, per il puro gusto anche di sognare. Bene, allora ci ascoltiamo questa Ho perso la direzione. È spartito. Ho voluto avere molte donne solo per imparare a lasciare, dissimulare malinconia nel dimenticarle. Ho voluto avere molti figli solo in sogno. Non me ne vergogno di seminare nostalgia di casa, tutte le persone che incontro sulla strada. Ho perso la direzione, aiutatemi a ritrovare. Verso sera la giornata si fa lenta e la luce si addormenta. Mi permetto di sognare un altro spazio, un altro tempo, un altro io che non sia il mio. Un altro io che non sia il mio. Lasciato oppure diluito cose viste che non ho capito. Molte persone e pensieri tutto attorno, pochi amici sulla via del ritorno. allontanato situazioni un po' scontate, le mie storie le ho cercate, e non mi stanco di guardare, cercare me nel mio vagare. Verso sera la giornata si fa lenta e la luce si addormenta. Mi permetto di sognare un altro spazio, un altro tempo, un altro io che non sia il mio. Un altro io che non sia il mio. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Quartetto Desueto sono con noi in questa serata per farci conoscere di più il loro ultimo lavoro che si intitola Mari Lontani. Abbiamo ascoltato e scoperto anche quella che è la versione acustica del pezzo che chiude l'album, si intitola Ho perso la direzione, e direi che tra tutti è un pezzo con gli accenti un po' cantautorali, definiamoli così. Perché è un'altra canzone che nasce da dentro altre considerazioni, però c'ha una filosofia diversa rispetto alle sonorità più aperte che si sentono come nell'iniziale Sunshine piuttosto che nelle altre proposte. Se mi permetti, Flavio, una filosofia da obo, è un pezzo da obo nella parte centrale, poi alla fine col sax di Cesare si allarga considerevolmente e toccare anche di piccoli particolari jazzati, però è una canzone da obo all'inizio, leggermente, secondo me, non so se sei d'accordo. Ma appunto sì, cioè dal canto da obo, sì. Da uno che viaggia, c'è un verso che parla del viaggio. Sia fisico che appunto interiore. Cioè, diciamo che la collocazione non è casuale di questo pezzo, ci tenevamo che l'apertura del disco fosse una cosa assolutamente solare come appunto Sunshine. E questa chiusura invece lascia un qualcosa, forse si può definire anche magari un pochettino più riflessivo, no? E quindi è inevitabile che nel disco vengano fuori le diverse anime di quella che è una band, a volte più fuse, a volte magari viene fuori qualche emozione un pochettino più nitida. In questo caso sì, certo, è la canzone del viaggiatore, anche ho perso la direzione, chi non perde la direzione? Io penso che non ho mai la direzione giusta, è sempre proprio un ricercarla la direzione. E appunto è parlare di quel grande viaggio appunto fisico, metafisico, interiore, che è appunto la vita. Il novero delle esperienze che ci possiamo permettere di fare è un po' quella brama che abbiamo di cose che non sono raggiungibili, no? A volte abbiamo appetito di esperienze che non sono a portata di mano, forse solo così per una, possiamo chiamarla un'ingordigia di vissuto, no? A volte ci piace poter fare qualsiasi cosa che sia possibile, invece forse solo perché dobbiamo optare per appunto una direzione piuttosto che un'altra, a volte sì, appunto questa direzione anche perché si poi, perde. Certo, la giornata ha solo 24 ore. Assolutamente, quindi... assolutamente sì. E anche un altro, con questo sì, chiudo appunto la riflessione su questo pezzo, e anche comunque la cognizione netta della fortuna del nostro punto di partenza, di persone assolutamente privilegiate, perché per tutto quello che riguarda dalla nostra passione, il tipo di vita che conduciamo, e forse solo anche cose, se vogliamo, non semplici ma appunto mai scontate, come quella della salute eccetera, tante volte. E anche quando si parlava prima, no, di pensare di essere in altre persone, appunto io sì, potevo essere magari, che ne so, George Harrison, sì, ma potevo essere anche il ragazzo che era nato dall'altra parte del Mediterraneo, no, nella sponda africana, che per cercare un lavoro era costretto a pagare migliaia d'euro per fare un viaggio che forse non aveva neanche una meta, no? E quindi sì, appunto la riflessione intorno a queste cose qui, però non è neanche tanto malinconica, è semplicemente lo stato di cose, ecco. Bene, allora questa Ho perso la direzione, un brano scritto da Aldo assieme a Cesare, che appunto ha dato la parte vocale, ma nell'insieme il gruppo Quartetto Desueto lavora insieme ai testi. Sì, assolutamente, collaboriamo tutti, può esserci un'idea, però poi dopo viene comunque sviluppata da contributo di ciascuno di noi, che magari non interviene direttamente dicendo no, questa parola deve essere un'altra, ma magari suggerisce un ambiente o un qualche cosa all'interno del quale il pezzo dovrebbe muoversi dal punto di vista appunto stilistico o delle tematiche che vanno affrontate. Quindi comunque assolutamente la collegialità è la cosa verso la quale noi stiamo tendendo di più, cioè, e siamo convintissimi che se riusciamo a fare questo, se riusciremo a farlo in maniera compiuta, allora forse riusciamo a fare anche il salto, un ulteriore insomma salto di qualità. C'è all'interno di ciascuno di noi una ricchezza che, se viene messa insieme, può produrre qualcosa di sicuramente interessante. Se invece rimane legata al singolo, probabilmente si ferma lì, insomma. Ecco. Parliamo invece di una cosa legata al singolo, quindi i gusti musicali è un po' quelli che sono, appunto, come si ricordava prima, gli artisti che vi hanno dato, diciamo, il là, o le altre note musicali. Da dove cominciamo? Allora, cominciamo dal più vecchio. Giusto, allora parliamo con Puccini, Donizetti, Cesare. Con Cesare. Lui. Nilla Pizzi. No. Carlo Gesualdo da Venosa. Comunque, dopo tanti anni, a parte un po' di jazz, che però non mi sento di affrontare dal punto di vista strumentale, io ascolto sempre volentieri il buon vecchio Sting. E quello, insomma, è il mio cantante, autore che insomma consumo di più, ecco. Nell'epoca Police o nell'epoca successiva? Tutte, ho capito. Quindi da sassofonista, da... insomma, Marsalis credo che Marsalis, non sia da, certo, poco, ecco, sì, sopranista, meraviglioso, per cui... No, ma mi piace proprio il suo modo di cantare, mi piace il suo modo di comporre, poi insomma... gli arrangiamenti, le sonorità sono quelle che mi centrano di più il mio gusto, insomma. Bene, adesso andiamo da Aldo. Va bene. Sì. Cavolo, a me piace troppa musica, accidenti, non saprei da dove iniziare. Prendiamo l'elenco. Boh, non so, di chiaramente da chitarrista parto dai chitarristi, ce ne tanti che si potrebbero menzionare, però magari ne cito uno che magari è meno scontato degli altri, che è per me un grandissimo, che è Peter Green, che è Peter quel chitarrista Green, che ha scritto Black Magic Woman, che forse è come cosa conosciuta di più. Sì, non l'ha scritto Santana, o l'ha scritto Peter Green, ragazzi, non sbagliamo, l'ha scritto lui. Sì, ma dopo è stato Santana quello che l'ha portata avanti, per cui... Sì. Peter Green è un chitarrista meraviglioso, sì. Mi piace proprio la sua vena assolutamente emotiva, e poi mi piace anche il caso, no? Nel senso che lui un giorno, pulendo lo strumento, rimontò poi su i pick-up, no? Che sono i microfonini che stanno sulla chitarra di questa Les Paul, ci sono due pick-up, e per puro caso ne montò uno rovescio rispetto all'altro, quindi ottenendo un suono che era tipico per la Gibson, che se vogliamo un suono più vicino a quello che è la Stratocaster, no? Mm, quindi si era creato quell'ibrido interessante che era appunto il suo suono, no? La sua voce. Quindi per la chitarra sicuramente Peter Green, e poi accidenti, in Italia non ho dubbi nel scegliere il maestro che è il principe per me, che è De Gregori. Mm. E poi non lo so, da Miles a Chet Baker a, che ne so, i Radiohead delle ultime cose, gli quindi ultimi stiamo navigando anni, anche in mezzo al jazz. Sì, jazz magari non lo suono nemmeno io come Cesare, nel senso mi piace studiarlo un po' così per diletto, però ascoltarlo ascolto sempre tanto volentieri. Sì mi piace da matti. Benissimo, allora adesso a Giacomo sentiamo. Sì, ma c'era un intervento in cui sì, volevo parlare di Peter Green un secondo velocissimamente. Lui aveva fatto un disco End of the Game, per molti anni è stato un disco rarissimo in vinile, rarissimo. Poi dopo tanti anni ha fatto un altro, tutti ricordano questo End of the Game, disco che poi è sparito per 20 anni, non si è più visto. Dopo ha fatto End of the Game, era uno di Fleetwood Mac, dobbiamo sottolinearlo questo. Quindi abbiamo visto l'enciclopedia musicale di Maurizio fino a dove arriva. Non ha computer Google, cioè tutto... mi sta guardando negli occhi quindi non legge assolutamente. Allora adesso vediamo, facciamo con Giacomo. Prima si citava il bassista Sting, e tu da bassista invece cosa ci citi? Da bassista cito, vabbè, il buon Pastorius, che sempre, fa sempre bene. Jacopo Pastorius. Esatto. Jacopo per noi. Sì. Sì, esatto. Pastoriello anche, dipende da Pastorius. E poi direi che in questi ultimi anni non c'è nessuno secondo me come Richard Bona, insomma, che ha preso anche il posto poi di Pastorius, poi con Zawinul, insomma. Mm-hmm. Lui sta facendo tuttora, insomma, scuola. Ma ti piaceva all'epoca prima di Pastorius, quando suonava con gli altrettanti grandi musicisti jazz, o nella pausa solista, o poi nei Witherspoon? Ma secondo me il marchio suo era, cioè, ovunque andasse si sentiva che era lui, nel senso che comunque portava, cioè che suonasse con Zawinul oppure con le band, anche con le band con cui lui ha iniziato, comunque, cioè, si sentiva che era un marchio inconfondibile, quindi mi piace in tutte le salse, insomma, quindi... anche perché aveva dato nuove sonorità al basso, non solamente come accompagnamento ma anche come strumento proprio e in prima, come dire, in prima fila in questo, a questo punto. Assolutamente. Poi vabbè, insomma, da Crosby, Stills, Nash, agli Eagles, ai Beach Boys, che adesso magari stasera andando a casa li riascolto. Sì, abbiamo esorcizzato. Esatto. Sì. E poi comunque ho sempre nel cuore da James Brown a Earth, Fire, Sly and the Family Stone. Sei black, c'è poco grande, da fare. Grande. Per me, io sono ancora fermo forse a quegli anni lì. Mi sa che tutto il gruppo è fermo là ancora. Esatto. Sì, anche noi. Allora, adesso invece... Senza nulla togliere, comunque i grandi artisti che sono emersi anche in questi ultimi anni. Insomma. Certo. Adesso per finire con Mauro, vediamo intanto se appuntava un po' di... Ma sì, perché magari poi ti sfuggono quelli che dicono caspita, quello volevo nominarlo. Comunque in realtà ho due amori e basta. Mm-hmm. Non faccio altri commenti. Comunque, no, dico, cioè, io sono partito da Paul Simon e sono rimasto lì. Sì. Simon Garfunkel, la prima cosa che ho ascoltato seriamente è stato il concerto in Central Park, e me lo sono anche trascritto tutto. Mi ricordo ancora quella domenica, non so se era, ecco, loro mi stanno prendendo letteralmente per il no. Ma io so, no, perché voi no, poi magari ne parliamo. Comunque no, Paul Simon veramente per me rimane il maestro assoluto. Ma ultimamente ho scoperto un altro artista che non riesco più a tirare fuori dal lettore CD della mia macchina, che è Nick Drake, scomparso troppo presto, purtroppo. Maurizio si è alzato. Mi devo alzare i piedi. Lui per me non so, lo metto lì, insomma, cioè Paul Simon e Nick Drake, non, adesso veramente lo ascolto proprio costantemente, soprattutto il suo primo album, che dicono fosse ancora un po' così privo di forma, leggermente orchestrale sì, però ci sono questa chitarra, questa voce che canta totalmente da un'altra parte dal punto di vista ritmico, e lui queste cose le faceva contemporaneamente, le registrava, che veramente a me proprio crea un'emozione straordinaria che ormai faccio fatica a trovare, ecco. Il problema tante volte quando ci fanno queste domande qua, almeno per me è proprio quello di ma non saprei francamente chi ascolto volentieri. Ecco, Nick Drake sicuramente. Ecco, Flavio lo sa, però sì. Sai quanti musicisti che sono venuti qua, Flavio è testimone, che hanno citato Nick Drake? Nick Drake. Tantissimi musicisti, giovani è anche. È nel cuore di tutti. Però adesso riferendomi a Paul Simon, io ho notato qualcosa di Paul Simon, del Paul Simon solista, diciamo del Paul Simon della world music, sì, all'interno di quelle che sono le vostre sonorità, quindi stiamo citando quelle esperienze che lui ha avuto in Sudafrica, mi sembra, sì. Graceland. Con Graceland, giusto, cantando assieme ai Mambazo, come si chiamano, Kuti Kumilo al basso, ecco, tutta quella banda straordinaria. Sì, assolutamente, sono i Ladysmith Mambazo, eccoli là, si chiamano così, un gruppo che va molto bene in quel del Sudafrica. Mi ricordo che ho comprato un CD senza sapere qual era la differenza tra euro e rand, che era la moneta del Sudafrica, poi mi sono reso conto che ho pagato uno sproposito e in effetti mia moglie ce l'ha ancora con quella, no, con quella avventura. Vabbè, comunque una roba assolutamente interessante anche quella di Ladysmith Mambazo. E per tornare a bomba invece con la musica dei Quartetto Desueto, cosa tocca in questo? Potremmo fare un altro pezzo live, no? Sì, dite? Dai, parlami. Sì. Vabbè, perfetto, parlami sempre da mari lontani. Mauro. E niente, parlami, lo dice il titolo stesso, è un invito, un semplicissimo invito a comunicare un po' di più. Tante volte comunicando si alleggeriscono anche le proprie emozioni, diventa un po' più facile anche sopportare le piccole, grandi disavventure che tutti quanti incontrano nella loro vita. È tutto qua, questa è la semplice filosofia del pezzo. Ho visto fiori tra i più belli cadere giù, come i tuoi sogni, i tuoi anelli volare via. E adesso sei tutto quello che non hai. Hai perso il voce, hai perso occhi, hai perso tu. E dalle tasche qualche soldo e non ne hai più. Fortuna che non sei mai stato ricco e non andrai. Nel cielo che ormai è vuoto da un bel po'. E allora parlami almeno una volta di te, con lentezza se puoi. Occhi in tasca a fingere con noi, a vivere qui dentro al prossimo vorrei. Hai fatto passi da gigante, non eri tu. Hai corso estati, inverni, notti e sei sempre lì. Ma sai che se qualche pensiero vero mi dirai, non cambierà, ma meno freddo forse sentirai. E allora parlami almeno una volta di te, con lentezza se puoi, non nascondere il vuoto che c'è. Dentro l'anima parlami almeno una volta Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Questo pezzo si intitola Parlami, ma ce ne sono anche degli altri che hanno la stessa, come dire, sonorità, tipo Cercami, è sempre un altro pezzo tratto dall'album Mari Lontani, loro sono il Quartetto Desueto, sono ben 12 pezzi con le sonorità che abbiamo descritte, vale veramente la pena. Per i nostri ascoltatori approfondire ancora questi pezzi, magari entrando in possesso del disco e, perché no, andarli a vedere dal vivo. Ricordiamo quelle che sono le date. Guarda, la più vicina le più vicine, insomma, sono il 6 dicembre saremo a Bolzano al Teatro Carambolage, sì. E il 7 dicembre invece per tutti i nostri amici della provincia di Treviso, Pordenone e dintorni saremo al Teatro Zancanaro di Sacile alle 9:30 per, insomma, due spettacoli nei quali crediamo moltissimo, perché avremo la band, quella allargata, con i fiati, con i cori, con la batteria, insomma uno spettacolo veramente che quelli che hanno avuto la fortuna di vedere a Vittorio Veneto, insomma, hanno goduto pienamente, per cui, insomma, venite ad ascoltarci, non ve ne pentirete. Ma avete dato spettacolo anche qua con un pezzo che abbiamo sentito qualche secondo fa, perché era il pezzo proprio corale al 100%. Questo è, secondo me, il massimo della coralità, l'avete proprio messo in questo pezzo. Bene. Io l'ho recepito così, anche Flavio sicuramente. Benissimo. Beh, assolutamente sì, anche perché vedo che questo, come altri pezzi, è firmato da quattro componenti del gruppo, certo. Per cui, e c'è anche la, come dire, l'aiuto di Max Kasslunger in questo pezzo, che torniamo a salutare, che è il percussionista che vi ospiterà in quel di Bolzano. Assolutamente. Quando andrete, addio, non lo so se dormiamo su Giacomo, è Giacomo l'esperto di logistica del gruppo. No, non dormiamo da Max adesso, ma dormiremo da Max durante il Winter Tour. Infatti. Che toccherà tutte le località più belle delle nostre straordinarie montagne, che sono le Dolomiti. Saremo in Val Badia, saremo in Val Pusteria, nella Val Boite, insomma gireremo un po' dal parte di San Martino di Castrozza e così via, Fiera di Primiero. Insomma, vi aspettiamo nelle Dolomiti dal 26-27 di dicembre fino all'8 di gennaio. Ecco, lì invece sì, sarà Max ad ospitarci. Quindi di giorno si scia e di sera si suona nei rifugi. Bellissimo, sì. Quindi sì. Si rende proprio l'atmosfera quella da osterie che si diceva prima, che si citava prima. Chiama l'osteria a meno 20, cavolo, lì fa freddo. In osteria di solito c'è il caminetto, no? Lì si suona all'aperto. Si suona all'aperto, accidenti. Quindi è un po' difficile, voglio dire, arpeggiare e suonare. Diglielo a Cesare col sax che si gela. La condensa, si blocca i tasti, fa il disastro. Quello che se la cava meglio è Mauro, che mi chiedo sempre come faccia. Io devo mettere su il paraflu per muovere le dita. Secondo me anche Giacomo comunque. Credo che sia i geni del nonno Tony. Sì, ma lui vive già sulle temperature. Anche le Williams, ecco. Sì, quindi anche le pelli, voglio dire, anche le pelli in versione termica, diciamo, visto che adesso c'è l'obbligo delle gomme. Comunque tutte le date le trovate appunto sul nostro sito. Saremo appunto in giro dal 27 all'8, bellissimo, con l'apertura il 25, sera di Natale. Vittorio Veneto, che ormai è un appuntamento consolidato, facciamo il concerto in casa, insomma. Bene. L'idea è di fare questo tour invernale nelle Dolomiti, nelle montagne nostre, com'è nata? Un'idea molto interessante, è difficile anche logisticamente a gestire, secondo me. Ma guarda, qui al di là del freddo, te ne parleranno i Da Rose, perché più che il Winter Tour, che in sé è bellissimo, secondo me è la cosa proprio una delle esperienze più belle di questa band. È stato quel ciclo di quattro concerti, uno per stagione, che abbiamo fatto poco fa, ma appunto di questo vi parlerà Mauro e Giacomo, perché appunto viene dalla loro tradizione europea. Loro sono sciatori, montanari, ma io dico la verità, mi sono accodato ben volentieri. Era dai tempi di cui facevo l'alpino sottolineo, che andavo in montagna, e veramente ripeto a loro grazie, perché è stato proprio bello far fatica insieme. Bene, adesso cosa ascoltiamo? Qualcosa da disco? Un secondo che farà la spiegazione. È semplicissimo, noi dovevamo trovare un modo per coniugare la passione per la montagna con la passione per la musica. Era impossibile, perché tu arrivi praticamente a casa quando ti devi alzare, perché quando suoni nei locali arrivi verso le 3, le 4 del mattino. Non era possibile. Per cui dal nostro grandissimo grafico Sergio Rosolen è nata questa idea: facciamo un concerto in mezzo alla neve. E in questa maniera qui siamo riusciti a coniugare le due passioni. Abbiamo portato sugli strumenti e abbiamo fatto questi concerti, questo ciclo di concerti, al quale poi dopo sono seguiti una serie di altri concerti e poi Winter Tour, così insomma, che ci hanno aperto anche nuove strade, nuovi amici. Ecco, sì, è partito da questo bisogno, da questa necessità. Bene, sul, allora sul sito adesso... ci sono, sì. Scusa, sul sito ci sono i video. Sì. Ci sono dei video di questi concerti qui, insomma, quindi andate a vederli perché insomma, i posti erano veramente belli. Poi Giacomo e la Forcella della Neve che ci avete portato su di là, è stato incredibile. No, andate a vedere perché è veramente interessante. E invece il pezzo che viene ora, sì, è velocemente, è un tradizionale che si perde nella notte dei tempi, del quale, diciamo, della melodia, dell'embrione di melodia iniziale non siamo riusciti a capire quale fosse l'autore preciso. Noi poi l'abbiamo sviluppato alla maniera nostra, dando anche un contributo dal punto di vista autoriale, a un qualcosa di, appunto, di questo tradizionale africano che arriva direttamente dallo Zaire, questo certo, si sappiamo. Adesso lo ascoltiamo e subito gli ascoltatori sapranno di che ritmi stiamo parlando. Via. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Dance, dance, she dance, dance, Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. A grande ritmo, questo Zucus, questo brano con una musicalità che arriva dagli anni 30 del Congo belga, Zaire. Si chiama Zaire o Congo belga adesso? Zaire? Sì, va bene. Sì, Zaire. Prima si chiamava Congo belga. Si ecco, quindi Zaire, quindi in quel di Kinshasa, nei locali, nei bar, si suonava questa musica a base di percussioni e di chitarra. Eh sì. Che poi appunto si è anche elettrificata e la sentiamo anche magari in qualche disco anche un po' più recente, no? Degli anni 70, 70, 80. Zucus, no? Arriva dal francese, scuotere, appunto, una musica velocissima da ballo, è molto molto molto interessante. E quindi in questo pezzo assolutamente vi sarete divertiti come mai. Vabbè. Quindi questo è un pezzo che solitamente nei concerti lo mettete verso la fine. Direi forse quando, anche verso la fine, detto bene. Verso sì, la sì, fine, dai. Quando la gente è calda abbastanza, come abbiamo fatto in questa serata, dove tutti gli ascoltatori si sono alzati dal loro tiepido divano, esatto. E si sono dedicati un po' a scuotersi, diciamo, in questo caso. Vabbè, è proprio sul più bello in cui noi ci stiamo divertendo, Maurizio, si arriva sempre alla pagina dei saluti, perché la nostra trasmissione sta per finire. E quindi, che dire, noi dobbiamo ringraziare il Quartetto Desueto per essere stati con noi in questa serata, per averci fatto conoscere la loro musica. Grazie a voi. In particolare questo disco che si intitola Mari Lontani, ma parliamo anche di altre produzioni, quindi anche di elementi desueti di qualche tempo fa, ma non troppo tempo fa. Quindi se vogliamo prendere possesso del CD dei Quartetto Desueto, la cosa migliore rimane i concerti. Dopodiché abbiamo tutta una serie di posti che lo vendono, appunto qui a Padova, come ci diceva la Green Records di Piazza De Gasperi, ma anche un sacco di altri posti disseminati tra il Veneto, l'Emilia, in Toscana, l'Alto Adige. Trovate tutto segnalato nel nostro sul sito, li trovate tutti quanti, e poi ripeto appunto anche su iTunes e altri siti digitali. Questo che diventa scaricare. Sempre un punto importante per i giovani, entrare in possesso con facilità dei pezzi per ascoltarseli, quindi lontani dalla pirateria, ma diciamo facciamo bene alla musica, perché come diceva prima Aldo, attraverso i soldi che si prendono con questo CD c'è un successivo investimento per fare sempre della nuova e buona musica. E ci teniamo a sottolineare che nemmeno questo è sufficiente, nel senso che grazie a Dio riusciamo comunque ad avere una buonissima attività live e anche delle ottime vendite, perché insomma ci siamo arrangiati e abbiamo avuto delle vendite comunque considerevoli. Però facciamo adesso anche un elenco delle persone che ci aiutano in maniera sostanziosa, come concreta, dire, perché senza di queste persone, come dire, non potremmo proprio mettere in atto il nostro progetto. Giacomo, fai tu a partire dalla famiglia Ricci. Sì, a partire dalla famiglia Ricci, che produce un vino fantastico, e il Bausk, e poi insomma ci ha dato una mano veramente veramente forte, continua tuttora a darci una mano. Poi il grandissimo Marco Goldin, che anche lui insomma è collaboratore nostro, soprattutto per quest'album, ma anche per quello precedente. Poi abbiamo i nostri amici ristoratori, esatto, non possiamo dimenticarli, da Lino, da Gigetto, Mauro dei Mazzeri, la Clemi. E poi ringraziamo l'amico Curzio, fantastico, bella. Poi Jeffrey e Giorgio Endrigo. Giorgio Endrigo sono due new entry, ma molto molto consistenti, esatto, grandissime. E poi il buonissimo Pino Papa, che ci ha sponsorizzato la prima uscita di Manifesti, adesso ci ha fatto delle magliette fantastiche che stanno andando a Rubazzi. Ve ne manderemo alcune, a proposito. Bene, sì, io ho la L, ecco. Assolutamente, ormai l'ha detto, assolutamente. Sì. Appunto, poi tutto il nostro, come dire, è proprio la nostra equipe, come si menzionava prima Mauro Poletto, Riccardo Dondi, che ci aiuta nella preproduzione, nei live, che è nostro fonico qui in Italia. Poi Ron Pendragon, che invece è il nostro fonico americano, fantastico. E da poco abbiamo anche messo in atto una collaborazione con una ditta italiana che è la Montarbo, e siamo molto fieri di questa, orgogliosi di questa faccenda. La Montarbo che fa le casse acustiche. Assolutamente sì, abbiamo iniziato una collaborazione con loro, infatti la purificazione nei teatri è loro, eccetera, eccetera. Poi facciamo proprio un processo di collaborazione. Appunto Sergio Rosolen e lo studio Biancavolto. Insomma, come vedete c'è proprio una vera e propria squadra. Certo. Oltre a noi quattro. Leggevo tra le altre cose, tra i ringraziamenti, che c'era anche Andrea Mingardi. Beh, assolutamente sì, Giacomo, parla tu, perché qui Giacomo è il bassista di Mingardi ufficiale ormai già da un paio d'anni ormai. Anche tre forse. Madonna come passa il tempo. Esatto. Sì, ma lo è stato anche di Bubola, no? Quel tempo. Sì. Con Aldo anche quell'avventura lì l'abbiamo fatta insieme. Come quasi insomma, tutte le altre avventure. Un sacco di altre avventure che magari lo diremo un'altra volta. E, comunque niente, Andrea insomma si è appassionato a questo progetto, tanto che ci ha scritto un pezzo, il secondo pezzo del CD è scritto da Andrea e dal suo collaboratore Maurizio Tirelli, e insomma la collaborazione continua, perché stanno continuando a darci del materiale, quindi insomma abbiamo un autore che scrive per Mina oltre che per se stesso e scrive anche per il Quartetto Desueto, quindi insomma possiamo andarne fieri, ecco. Assolutamente sì. Benissimo, allora noi ringraziamo il Quartetto Desueto, quindi ringraziamo Aldo, grazie Cesare, a tutti, Giacomo e Mauro, salutiamo anche a distanza Max Kastmüller che ci avrà seguito in diretta con lo streaming audio, quindi vi auguriamo un felice rientro dalle vostre parti, chi a Vittorio Veneto, chi a Bologna, chi a Chions, non so se ecco benissimo, però non ci lasciate subito, vero? Un altro pezzo vivo. Prima di questo ricordiamo 6 e 7 dicembre, il 6 a Bolzano al Teatro Carambolage, invece il 7 dicembre, che poi non è nemmeno distante da qui, perché se volete un'oretta di macchina venite, anzi perché non venite su voi? Ci facciamo un piacere, i biglietti ci sono per ci voi, sono per voi, grazie, già pronti, grazie. Così fate pure la recensione qui, una trasmissione fantastico. 7 dicembre al Teatro San Canaro a Sacile, il pensiero è il mare. Mauro? Sì, una parola velocissima, perché siamo in chiusura. Il pensiero al mare è quando ti trovi di fronte al mare, magari affidi i tuoi pensieri, ti immagini che si trasformino in aria che muove la superficie del mare, e questi pensieri si creano come un disegno sopra il mare, che viene visto anche dal cielo. Questo è un po' il senso del... Benissimo, allora noi vi salutiamo ancora una volta, grazie di essere stati con Maurizio. Noi Quartetto Desueto, da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara, il solito grande e caloroso ciao. Vi lasciamo con il Quartetto Desueto, il loro ultimo pezzo, Mari Lontani, ricordate questo titolo. Sul mare troverai le parole tue, le scriverai col vento e leggero sarà il pensiero che sull'acqua troverà lo spazio che non c'è, lo spazio che non ha. Sull'onda scivolando si poserà, vivrà per sempre in forme infinite. Sorridi adesso, sai che la profondità diventerà per lui quel volto che non ha. Acqua e vita sarai per il pensiero che il vento ha con sé. Dal vento al mare alla luce un angelo orfano, no non sarai, perché un volto infinito di stelle sul mare quell'onda vedrà. Perché un volto infinito di stelle sul mare vedrà. Sorriso pianto il vento dipingerà, col bianco che sull'onda colore sarà, segnando il volto che il cielo vedrà sul mare nell'immenso, vive il pensiero tu. Sull'onda scivolando si poserà, vivrà per sempre in forme infinite. Sorridi adesso, sai che la profondità diventerà per lui quel volto che non ha. Acqua che vita sarai per il pensiero che il vento ha con sé.